Liberi Dentro e Duradio, il programma di intrattenimento e cultura che fa ponte tra carcere e città. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Venerdì 5 febbraio, buongiorno e ben ritrovati di nuovo a tutte e tutti i nostri ascoltatori tra la città e il carcere, e rieccovi a Liberi Dentro e Duradio, la nostra trasmissione che fa da ponte tra il carcere e la cittadinanza. Io sono sempre Caterina Bombarda in conduzione, ma con me c'è Ignazio De Francesco collegato da Montesole. Buongiorno Ignazio. Buongiorno. Bentornato. Benvenuti alla nostra trasmissione, un saluto a tutti quelli che ci sentono dal carcere. Oggi un saluto particolare a chi dovesse avere qualche problema di salute. L'altro giorno una persona detenuta mi ha detto, mi ha chiesto, ti chiedo una preghiera particolare perché ho un problema grosso di salute. È ancora più difficile averlo quando uno non è in libertà, quindi davvero la preghiera, come posso, è per lui, per tutte le persone che ci sentono, con un augurio di salute, tenendo conto che per quanto è possibile tanti operatori in carcere si dedicano proprio alla tutela della salute, e ne parleremo molto anche in questo programma. E ne parliamo infatti anche adesso, perché sul sito di Antigone, di Associazione Antigone, c'è questo articolo intitolato Carceri, proposte per affrontare l'emergenza, per la salute, la dignità, contro l'isolamento, perché per l'appunto il carcere è uno dei luoghi che sta subendo di più le conseguenze della seconda e adesso terza ondata purtroppo della pandemia da Covid-19, con i numeri peraltro più ampi rispetto a quanto non sia avvenuto nei mesi di marzo e aprile. Ed è proprio per questo che Associazione Antigone, insieme ad AMPI, ARCI, CGL, Gruppo Abele, ha indirizzato una lettera al governo e ai parlamentari della Commissione Giustizia di Camera e Senato, a cui hanno aderito anche Amnesty International, ACAT, Ristretti, Orizzonti, Conferenza Internazionale Volontariato e Giustizia, ma anche la Tavola Valdese e tanti altri, con le misure proposte volte a ridurre in maniera incisiva la popolazione detenuta e a mettere in sicurezza le persone sanitariamente a rischio, ma anche a rendere non rischiosa e piena, priva di senso, la vita in carcere in questa maniera, perché veramente i numeri del sovraffollamento sono poi quelli che ci mettono più a rischio di contagio. E tra queste misure naturalmente c'è la detenzione domiciliare e la liberazione anticipata estesa fino a 75 giorni a semestre, con norme applicabili e retroattive fino a tutto il 2018. Ignazio, io sento sotto di te le campane e questo è molto bello, perché questo significa che anche se siamo registrati, noi siamo in diretta, vero? E quindi... Certo. Quindi la vita della città è fatta di questo, è fatta di automobili, è fatta di cose, è fatta anche della campana. Tra l'altro questa è una campana che chiama la preghiera, e noi viviamo di campane in monastero. Quindi la campana, come c'è l'annuncio della preghiera del Muezzin per la preghiera quotidiana, per noi, io ho abitato tanti anni in Medio Oriente, c'era l'annuncio della preghiera del Muezzin e poi noi avevamo la nostra piccola campana e si andava a pregare, e quindi ognuno serviva Dio, io dico sempre se esiste, per rispetto dei non credenti, e non perché non ci creda, ma per rispetto dei non credenti, quindi ognuno faceva la sua preghiera. Ma io vorrei appunto approfittare di questo piccolo spazio che abbiamo prima per il brano per dirvi di una notizia che mi ha colpito, un po' tirata fuori dall'archivio delle notizie, perché è un fatto che risale al 2019. Ma mi colpisce molto perché sono due persone, due vite che si incrociano, Richard e Cosimo. Siamo a Gallipoli. Richard era un ragazzo giovane, nigeriano, ancora un nigeriano, che faceva l'elemosina davanti ai supermercati, come li vediamo tanti nelle nostre città. Cosimo è un gallipolano doc, italiano doc, semplicemente che Cosimo ne ha fatto un po' di tutti i colori nella sua vita, e quindi quel giorno ha cercato di fare una rapina al supermercato. Richard l'ha fermato, si sono picchiati, gli ha anche fatto male Richard e Cosimo, perché Cosimo era più vecchio, più anziano, è finito in ospedale. Ma la cosa un po' curiosa è che il migrante nigeriano che faceva l'elemosina ha fatto arrestare Il rappenitore, che era un italiano, e ha ricevuto per questo non solo la funzione nel supermercato, ma anche un premio dal presidente della regione. Ovviamente noi ci complimentiamo con Richard per dire che sì, ha fatto una cosa giusta che bisogna fare, bisogna fermare chi compie il reato, però noi che parliamo al carcere siamo anche con Cosimo e veramente gli auguriamo. Cosimo si è preso 2 anni e 4 mesi per sto scherzo qua. E adesso è in E anche un carcere po' di botte, e anche un po' di poverino. volte, e noi però siamo anche con lui e veramente gli auguriamo che questa lezione, questa cosa che gli è accaduta, gli serva a rimettere in piedi la propria vita. Bene, e lanciamo il brano musicale sempre con un Kulzum. Ma dove abitava un Kulzum, Ignazio? A Zamalek, io al Cairo stavo a Zamalek. E passavo tutti i giorni per andare a scuola, passavo davanti alla sua casa, una bella casa sul Nilo, non era come la mia, che è una parrocchietta. Quindi vivo la sua casa. Allora, l'ultimo punto, l'ultimo brano che ascoltiamo questa settimana, Al-Hub Kulluhu, tutto l'amore. Eccoci sulle note di un Kulzum tutto l'amore. E adesso le notizie che vi do vengono da Genova, dove il carcere come recupero, corsi per educare chi educa i carcerati. Questo è molto importante perché in carcere per fare la rieducazione non si può entrare così, uno chiunque che crede di dare indicazioni agli altri, bisogna entrare preparati. Ed è per questo che è stato affidato, cioè comincerà questo percorso online in 10 incontri, aperto a tutta Italia, che è un evento veramente innovativo, un esempio che parte da Genova, dedicato alla formazione dei volontari o attivi o aspiranti e alla cittadinanza. Saranno 10 questi incontri, il primo lo apre Ornella Favero, che è la presidentessa di Conferenza Nazionale Volontariato e Giustizia, e poi dopo ci saranno incontri a seguire su un ricchissimo programma che incontra argomenti, categorie anche di persone diverse, uomini, donne, giovani, stranieri, affetti anche da malattie e da dipendenza, senza dimenticare la famiglia, i sentimenti, le affezioni. Quindi 10 incontri ogni martedì dalle 17:30 alle 19:00, e l'inizio è già stato al 26 gennaio, ma ci si può ancora iscrivere. Adesso invece, Ignazio, io do la parola a te sempre sul nostro Galateo Arabo Universale. Stavamo parlando di come vincere l'ira, abbiamo fatto tutta un excursus anche di consigli di vita. Adesso Abbiamo parlato dell'ira anche nella prima parte del programma, di questa aggressione davanti al supermercato, ma adesso cerchiamo anche di capire chi ci può aiutare. Sì, l'ultimo elemento, l'ultimo anello della catena, la catena che abbiamo, ricordiamo, siamo parlati per il silenzio, mantenere il silenzio, cambiare di posto e poi ricordare i danni dell'ira, non dimenticare quello che è successo, che si è fatto di male. E certe volte l'ira fa compiere anche dei grandi reati, certe volte sai, la sbella, certe volte si può anche uccidere per un momento di ira, fare qualcosa di insomma, molto grave. E poi abbiamo ancora visto prendere l'esempio di qualcuno che ci sta a cuore, chi ha il profeta, chi ha il suo Cristo, chi ha il suo Buddha, chi ha il suo amico, chi il suo papà, così. E l'ultimo consiglio che viene dato da questo Galateo, come dici tu giustamente, che è arabo ma anche universale, è rendersi conto che l'ira è una qualcosa più forte di noi. Allora, Maria Inglese, lo psichiatra, lo psicologo, ci può aiutare a capire cosa si muove nella nostra psiche, quello che noi non riusciamo a controllare e ci dobbiamo far aiutare per controllare quello che viene da noi. Questa è la posizione dello psichiatra, dello psicologo. La posizione dell'uomo credente è che c'è qualcuno dietro all'ira, una potenza nemica, una potenza malvagia. Allora cosa dice questo testo? Alistiado billah min ash-shaytan ar-rajim fa shaytan in asbab as-suluk au in fi'ali as-silbi alladhi yasdur 'anil insan. Allora chiedere aiuto a Dio da il Satana, il lapidato, il rajim nella tradizione islamica si chiama così. Infatti quando si va a Mecca al pellegrinaggio si tirano i sassi nella direzione di Satana e dice Satana è tra i motivi di un comportamento che porta alla violenza. Quindi ricordarsi per chi crede che dietro l'ira c'è sempre una forza negativa. Chi non crede, stia attento ai motivi della sua psiche. Bene, allora adesso concludiamo con te anche questa terza settimana di Eduradio e ci rivediamo lunedì prossimo sempre con te e ora io lancerei una canzone italiana dei Negramaro 6. Ci andavi verso lei e non pensavi che da quell'attimo saresti stato quel che sei. Tu sei, non sei più quel che eri un tempo e ora sei quel che c'è di diverso da me. E pensare a quanto tradirono tu quei baci che tolsero via dalle bocche le frasi che avremmo voluto gridare per convincerci che di amarci noi non ne saremmo mai stati capaci. Allora tu spiegami dei nostri baci il senso e se un senso lo trovi dimmi almeno qual è. Da indossare tu chi sei, mi assomigli tra quelle che ho cucito e non ricordo più chi sei, tu sei, non sei più quel che eri un tempo e ora sei quel che c'è di diverso da me. Bentornati, rieccovi, siamo sempre sulle onde di Radio Città Fujiko di Teletricolore con il nostro programma Liberi Dentro e oggi continuiamo con la nostra ospite Maria Inglese, medico-psichiatra dell'ASL di Parma. Buongiorno Maria, intanto. Buongiorno Caterina. E con te continuiamo quello che è il nostro percorso sulla cura di sé, la potremmo chiamare, e la conoscenza anche di sé, e è una richiesta questa che ci è venuta proprio anche all'interno della casa circondariale d'Ozza, quando abbiamo costruito il nostro palinsesto, ci hanno chiesto: ma perché non affrontiamo anche quelle che sono la cura del sé profondo? E quindi noi lo stiamo facendo con te, perfetto. La scorsa settimana abbiamo parlato di emozioni, in particolare di paura. Oggi invece continuiamo il nostro approfondimento parlando di quelle che sono le malattie all'interno dell'istituzione carcere. E abbiamo pensato di affrontare in particolare due parole, ecco, che sono la paranoia e la vittimizzazione. E sembra strano che le chiamiamo malattie dell'istituzione, perché anche fuori, abitualmente, quando si dice ma guarda quello com'è paranoico, cioè sono parole che fanno parte del nostro linguaggio comune. Quindi chiedo con te come mai sono malattie dell'istituzione queste? Allora, sono malattie delle istituzioni perché le istituzioni che sono fatte di persone, abitate da persone, possono ammalarsi esattamente come si ammalano le persone. E qui voglio citare una frase di Pietro Buffa, che è stato provveditore al PRAP della Regione Emilia-Romagna per diversi anni e attualmente provveditore della Regione Lombardia, ma è stato anche direttore di un importante carcere in Piemonte, a Torino, e ha scritto diversi libri sul carcere. Uno di questi si chiama appunto Amministrare la sofferenza, e lui dice una cosa molto importante del carcere, questa frase: un carcere che soffre è un carcere che fa soffrire, ma un carcere che fa soffrire è un carcere destinato a soffrire a sua volta. Ecco, molto pensato a questa frase di Pietro Buffa, perché effettivamente l'istituzione totale, carcere, è portatrice di diverse patologie, malattie, che sono proprio legate all'istituzione stessa, al suo funzionamento. Ce ne sono tante. Oggi parliamo proprio della paranoia e della vittimizzazione, che sono strettamente legate. Giustamente tu dicevi, la paranoia è qualcosa che noi tutti possiamo riconoscere in alcune Negli altri, persone ed è esatto. una diffidenza, chiamiamola così, una diffidenza molto incistata, molto ben strutturata, che può arrivare a dei veri e propri deliri persecutori. Ma nella definizione di paranoia, appunto, si parla di convinzioni che spesso sono di tipo persecutorio e non trovano una corrispondenza immediata nella realtà. Allora, qui mi permetto di dire che non trovano immediatamente una corrispondenza, però qualsiasi analisi, indagine su un disturbo paranoico porta degli elementi di realtà che in un certo senso stimolano questo tipo di funzionamento. E questo avviene anche per l'istituzione, in questo caso per l'istituzione carcere. Quali sono gli aspetti principali? La diffidenza, come dicevo, una diffidenza istituzionalizzata quasi, e l'enfasi sul controllo. Uno spreco di tempo, di risorse, di personale per chiedere sempre le stesse cose. Le stesse cose vengono chieste a più persone continuamente. Poi questa ipertrofia delle riunioni, degli incontri e la decisione però si sa che al di là di questi incontri è sempre presa dall'alto, da qualcun altro. Questo chiaramente alimenta un po' questa diffidenza, per questo qualcun altro è sempre fuori dai luoghi, dai momenti di incontro. E Certo. poi uno stile conservativo, più che uno stile innovativo, cioè invece che provare a trovare delle soluzioni diverse, si perseguono sempre le stesse strade, le stesse abitudini di pensiero e di pratica. Si sottovalutano le risorse delle persone e invece si sopravvalutano i rischi. Ecco, questo è un tipo di malattia dell'istituzione che riconosciamo nel carcere, perché nel carcere non solo, diciamo, ci sono le persone che possono ammalarsi, ma si può ammalare la stessa comunità e quindi anche il personale che vi lavora, anche i dirigenti. Bene, intanto grazie e lanciamo il brano musicale a metà della nostra trasmissione, lo lanci tu? Sì, è Modern Love di David Bowie. Musica e poi riprendiamo. Thank you. Bentornati, abbiamo appena ascoltato David Bowie, Modern Love, e continuiamo sempre con te, Maria, con questo percorso sulla cura di sé, e abbiamo appena parlato degli aspetti che caratterizzano la paranoia, cioè uno è paranoico quando ha un continuo controllo sugli altri attraverso continue richieste, rassicurazioni, anche diffidenza rispetto a quello che gli altri gli dicono. Però strettamente legata alla paranoia c'è anche la vittimizzazione. Perché? E infatti è l'altra faccia un po' del controllo e dell'attribuire sempre all'altro una responsabilità, una colpa del nostro star male. Il paranoico vede all'esterno le cause del suo star male e questo lo fa sentire chiaramente una vittima di una ingiustizia, la vittima di un abuso, la vittima di un dispositivo. Ed è un po' questo che volevo sottolineare, perché qui parliamo non tanto di malattie del singolo individuo, ma malattie del sistema, dell'istituzione. Allora, molto banalmente, la vittimizzazione. Noi sentiamo quando entriamo in carcere che sono tutti vittime, si definiscono delle vittime del sistema carcere probabilmente o del sistema giustizia, ma all'interno proprio della vita del carcere, la vita quotidiana del carcere, esistono degli aspetti proprio legati a come è così controllata la vita dentro l'istituzione, che fanno sì che la persona diventi qualcos'altro, diventa prima di tutto infantile, diventa soprattutto una persona disattivata delle proprie capacità. È una persona inutile, questo fondamentalmente quello che fa il carcere. Penso ad esempio alle domandine, o appunto, allora la domandina è chiaramente qualcosa che tu devi chiedere per regolamentare la tua vita quotidiana. Tutto ciò che è importante per te passa attraverso questo, che non è manco una domanda, perché diventa una domandina. E già in questo c'è una infantilizzazione e una vittimizzazione. E lo stesso anche per quanto riguarda i lavori all'interno del carcere, sono tutti... finiscono tutti in ino, scopino, spesino, no? E anche questo sento che è un aspetto un po' di svalutazione, di disattivazione di quello che invece dovrebbe essere una identità lavorativa all'interno della comunità carcere. È come se il carcere si prendesse, oltre che il tuo, diciamo, tra virgolette, la tua vita, in quanto sei dentro a un'istituzione, ristretto per un po' di tempo, ti prende anche la tua biografia, ti prende il tuo tempo. Molti autori infatti parlano che non c'è più un carcere che tortura il corpo o tortura lo spazio, è un carcere che tortura il tempo, e nel tempo c'è anche il tempo biografico, e quindi è una mortificazione della propria biografia. Ed è per questo che io trovo che siano molto importanti i laboratori di scrittura, ad esempio, in carcere, oppure la possibilità di scrivere, perché biografia significa scrittura della vita, proprio traducendola. E quindi questo è molto importante per riappropriarsi della propria vita, anche in carcere. Grazie Maria, e noi invitiamo i nostri ascoltatori a scriverci, perché attraverso la redazione di Liberi Dentro possano fare delle domande e non delle domandine anche a te su questi argomenti. Quindi mi raccomando, liberidentro.duradio@gmail.com. E ora un brano musicale lo lancio io, ed è di Francesco Guccini, nostro cantautore del bolognese, e il brano è Blackout. Grazie Maria e ci vediamo la settimana prossima. Ciao, oh, grazie. La luce è andata ancora via, ma la stufa è accesa e così sia. A casa mia tu dormirai, ma quali sogni sognerai con questa luna che spaccherà in due le mie risate, le ombre tue, i miei cavalli ed i miei fanti, il tuo essere sordo ed i tuoi canti, tutti i ghiaccioli appesi ai fili, tutti i miei giochi e i tuoi monili, i campanili, i pazzi santi e l'allegria. E non andrà il televisore, cosa faremo in queste ore? Rumore attorno non si sente, giochiamo a immaginare la gente, corriamo a fare gli incubi indiscreti, curiosi dozzi e di segreti, di quei problemi quotidiani, che a notte il sonno fa lontani, o che nel sogno sopra un viso diventa un urlo d'un sorriso, il paradiso, inferno mani, l'odio amore. Avessi sette vite a mano, in ogni casa entrerei piano e mi farei fratello amante, marito, figlio, re o brigante, o mendicante, o giocatore, poeta, fabbro, papa, agricoltore. Ma ho questa vita e il mio destino, e ora cavalco l'Appennino e grido al buio più profondo, la voglia che ho di stare al mondo, in fondo è proprio un gran bel gioco, a far l'amore tanto e non bere poco. Ben ritrovati, ci salutiamo anche oggi, ci salutiamo per darci appuntamento a lunedì prossimo, sempre con me, con Ignazio, per la cronaca bianca. Abbiamo ascoltato Maria Inglese, la psichiatra dell'ASL di Parma, sempre molto interessante i suoi interventi sulla salute mentale, ma oggi ci ridiamo appuntamento, ci salutiamo per darci appuntamento a lunedì prossimo e vi ricordo sempre di scriverci all'indirizzo postale Chiesa Santissima Annunziata, via San Mammolo 2, 40136 Bologna, oppure alla nostra posta elettronica liberidentro.eduradio@gmail.com. Grazie. Buona settimana, buon fine settimana e alla prossima!